Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata dal gastronauta. Ebbene, oggi parleremo di un argomento che può sembrare così un po' strano, ma in realtà è diciamo una cucina, appunto la cucina dei fiori, che sta abbastanza prendendo piede in giro per il paese, per l'Italia. Addirittura non avevo ancora iniziato la trasmissione e già erano arrivati sul sito www.gastronauta.it due segnalazioni di due pranzi che sono venuti, uno ieri sera di cui parleremo e uno che avverrà nei prossimi giorni, tutti a base di fiori. Vero, incredibile ma vero. Quindi il fiore si possono mangiare? I fiori si possono cucinare? Questo sarà l'argomento di questa puntata. Ricordo, numero verde 800 24 0024, messaggi SMS 349 238 6666. Ma prima di iniziare voglio ricordare, specialmente agli amici romani e a quelli dei castelli, che la cucina dei fiori ha avuto un personaggio negli anni, fine anni 70, primi 80, straordinario, che era Sandro Fioriti, al secolo d'Artagnan, il quale faceva una cucina dei fiori con grande successo. Poi è andato negli Stati Uniti, ha avuto un grande successo non tanto con la cucina dei fiori, ma con la sua cucina romana. Quindi se qualcuno che mi sta ascoltando ricorda qualche piatto di Sandro, oppure lo vuol ricordare, prego di intervenire perché mi farebbe molto ma molto piacere. Bene, iniziamo da Cecilia Angeletti, che appunto si occupa di giardini, è appassionata di cucina, ma assieme a un'altra sua collega Lucia Papponi ha organizzato proprio un evento dedicato alla cucina dei fiori presso il laboratorio Cagliani. Bene, cos'era questo laboratorio, Cecilia Angeletti? Buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, abbiamo io e Lucia, proprio per la nostra passione per la cucina abbinata al nostro amore per la natura, abbiamo fatto questa, quello che abbiamo definito una lezione semiseria. Abbiamo cioè presentato alle persone interessate le piante, i fiori e quelle che vengono considerate le erbacce, con una presentazione PowerPoint in cui ne abbiamo illustrato le principali caratteristiche e la possibilità di raccogliere nei campi, come raccoglierle, con anche delle curiosità, e nel contempo abbiamo preparato delle ricette e che abbiamo fatto poi degustare per dimostrare e far capire alle persone che è molto semplice cucinare con i fiori ed è anche molto divertente nello stesso tempo e anche economico, direi. E c'è molta gente interessata a questa cucina, c'era molta partecipazione al laboratorio. Sì, devo dire che siamo state molto sorprese perché il tema di questa lezione l'avevamo proprio deciso con Davide proprio perché era un argomento che a me e a Lucia stava a cuore. Ed era quindi una lezione semiseria nata per gioco, unendo le conoscenze botaniche alle conoscenze culinarie, non a livello di cuoche, perché noi non siamo cuoche e neppure ci vogliamo fregiare questo titolo, ma molte persone di diverse età sono venute e sono rimaste anche piacevolmente sorprese nello scoprire anche piatti semplici della loro tradizione, riproposti, che esistono nel DNA di ogni regione, riproposti in maniera semplice e divertente nel contempo. Bene, grazie a Cecilia Angeletti, grazie, e ricordo numero verde 800 24 0024, ma ora si pone il problema: dove si possono trovare dei fiori edibili? Ebbene, lo chiediamo a Marco Carmazzi, della floricoltura Carmazzi di Torre del Lago, in provincia di Lucca. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei produce fiori edibili? Sì, produciamo fiori eduli, fiori commestibili da 3-4 anni. Sono fiori certificati biologici perché questa è garanzia anche di una certa salubrità e sicurezza del prodotto, con una tracciabilità tutta sua. E per cui produciamo a seconda delle stagioni, perché ovvio ci sono alcuni fiori come le viole cornutine, le viole del pensiero, che sono diciamo stagionali, cioè le abbiamo da settembre a maggio, poi col caldo una pianta che si lascia andare, poi abbiamo fucsie, nasturzio, petunie, bocche di leone, garofani. Quindi sono tanti i fiori che si possono mangiare? Sono molteplici, è ovvio che ci sono alcuni fiori, come sappiamo benissimo, che anche in natura però non sono commestibili, come l'oleandro, oppure in alcune situazioni anche la gardenia, eccetera, però tanti altri, la maggior parte sono commestibili, come del resto anche l'ortaggio, niente di più, è solo una questione, credo, culturale, ecco, se a noi ci avevano insegnato in Italia a mangiare sempre begonie, forse mettevamo l'insalata. Certo, certo. Bene, grazie a Marco Carmazzi, lo ripeto, Torre del Lago, provincia di Lucca. Sentiamo Marinella da Biella, una radioascoltatrice, buongiorno. Buongiorno. Mi dica. Buongiorno, noi domani facciamo seguiamo il nostro programma di cucina, che è Cucinare con i Fiori, e al pomeriggio alle 2 cominciamo la scuola di cucina, dove possono imparare a cucinare questi piatti con i fiori, e poi verranno degustati alla sera. Senta Marinella, ma da quanti anni voi avete questa scuola di cucina dei fiori? Cucina dei fiori circa 8 anni. Ah, quindi cioè, proseguite nel tempo, c'è molto interesse? Sì, moltissimo, moltissimo. Ecco. Abbiamo cominciato con le erbe e poi siamo passati ai fiori. Sì, sono due mondi completamente diversi comunque, sì, anche dal punto di vista delle ricette, immagino. Beh, più o meno, diciamo che noi usiamo proprio le erbette raccolte nei prati, per cui un'affinità c'è. Ho capito. Senta, dei fiori qual è il fiore che secondo lei è quello che si adatta di più e quello, diciamo, maggiormente interessante per la cucina? Io uso moltissimo la lavanda. Quindi la lavanda. La lavanda dove la usa? Domani ad esempio facciamo la trota salmonata alla lavanda e poi facciamo dei biscotti. Quindi oltre che metterla, diciamo, nei cassetti per far mantenere così diciamo puliti e profumati i panni, si può anche mangiare. Grazie. Certo. Sentiamo Aldo da Roma. Buongiorno Aldo. Sì. Mi ricordo era un risotto con rose e un altro, forse c'era il garofano, mi sembra. Era un piatto particolare, molto molto gradevole. Ecco, che tipo di rose? Rosse. Bene, leggo addirittura che a pochi chilometri dal mio paese natale, vicino a Forlì, a Galeata, leggo che a Cusercoli, all'Osteriaccia da Silvano, c'è un'ottima cucina con i fiori. Bene, non lo sapevo, chissà la prossima volta se passerò di lì sicuramente. Poi da piccolo a Torino mia mamma ci faceva la frittata con le primule. Le raccoglievamo a marzo in montagna, Sandro, e poi anche gelateria Chantilly fa un ottimo gelato artigianale senza preparati con fiori di lavanda. Poi potrei continuare ancora a Iosa. Bene, ma ho già anche un altro radioascoltatore. Sentiamo Bruno dalla provincia di Cuneo. Buongiorno Bruno. Buongiorno. Prego Bruno, parli. Quando è stagione, quando vengono fuori le primule, io e il mio vicino di casa andiamo a raccogliere e poi le nostre mogli ci fanno la frittata. Ho capito, è buona questa frittata di primule? Sì, perché è molto, molto leggera e molto profumata, così come, e questo l'abbiamo fatto 15 giorni fa, nel periodo di fioritura delle acace, grandi frittelle con i fiori d'acacia. Bene, vedo che dal Piemonte c'è molto interesse, perché oltre prima abbiamo sentito Biella, ora Cuneo, poi ho una segnalazione da Piozzo in provincia di Cuneo, dove c'è Maurizio Camilli, il cuoco di Baladen, vellutata di piselli e pettolo rosa su fassona, l'hanno mangiato ieri sera con grande successo a quanto mi è stato descritto. Bene, continuiamo questo nostro viaggio. Devo dire che ho ricevuto ora un SMS che mi chiama un ospite che è in linea, un ospite per me molto particolare, perché devo dire che io ho imparato a mangiare i fiori in un posto che si chiama Assoliera, in provincia di Carpi, dalla famiglia Lancellotti, e ora Angelo Lancellotti, uno dei fratelli, ha aperto una sua osteria boemia a Assoliera, ma lui era sempre il cuoco prima e lo è tuttora. Buongiorno Angelo. Buongiorno. Fai ancora quella famosa insalata di misticanza con nasturzio, pere e aceto balsamico tradizionale di Modena? Stagionalmente, permettendo, sempre. Ecco, tu hai un orto straordinario, se ben ricordo, un orto addirittura non solo di erbe ma anche di fiori. Ecco, ma c'è stato, tu che l'hai sempre fatto, quindi sono 20 anni e più che tu, di più. Fai questo tipo di cucina. Hai visto che c'è stata una grande ripresa, c'è un nuovo grande interesse, oppure c'è sempre stato e magari io non me ne sono accorto? Diciamo che l'interesse è non di una grande parte di pubblico, ma quella parte di clienti che sono molto, apprezzano molto questo lavoro, anche perché la coltivazione diretta mi permette di fare un certo tipo di lavoro, come chiamano gli inglesi organic, no? Sì. Io non mi posso permettere di fare alcun tipo di trattamento perché dovendo raccogliere tutti i giorni, e questo fatto a una certa parte di persone lo gradisce molto, oltre che il gusto e tutto il resto. Bene, rimani con noi Angelo. Ora abbiamo un'altra, diciamo, ricordo, numero verde 800 24 0024, SMS 349 238 6666. Abbiamo con noi Giusy Foschia, che è il giardino commestibile di Tarcento. Devo dire che Giusy Foschia è molto, ma molto famosa tra gli appassionati. Devo dire che da tutte le parti arrivano segnalazioni su questo giardino commestibile. Giusy, ma cosa c'ha di così eccezionale il suo giardino? Ma di eccezionale, insomma, no, la mia è una ricerca su tutti i fiori ed erbe, diciamo, che possono avere un utilizzo in cucina. Da tutto il mondo, diciamo così, una ricerca nata con passione nel tempo e poi sviluppata lentamente. Ma da quanti anni ha questo giardino commestibile? Beh, questo giardino commestibile ce l'ho da 3 anni. Prego. Sì, prima era stata una ricerca fatta già da circa 10 anni, così che avevo già un catalogo di piante aromatiche insolite. Ma lei la sente emozionata, ma non si emozioni. devo dire che il suo indice di popolarità tra chi si occupa dei fiori è talmente alto, quindi stia tranquilla. Volevo chiederle questo, diciamo, qual è i fiori a cui lei è più appassionata e quelli che secondo lei sono più adatti alla cucina? Beh, certamente la calendula, i fiordalisi, i lilla, per dire, la camomilla. Ecco, con la camomilla si possono fare dei piatti? Sì, anche con la camomilla, sì. Cioè, si potrebbe andare avanti. Innanzitutto, quasi tutte le erbe aromatiche, i fiori delle erbe aromatiche sono utilizzabili. E poi con i fiori della camomilla, in particolare, potete fare delle bruschette o delle bevande. Ecco, lei ha fatto un libro di cucina su come utilizzare i fiori? No, veramente no. Beh, ci pensi, perché visto la sua preparazione, nel frattempo mi è arrivato un SMS che dice frittelle di fiori di sambuco. Io vado pazzo. Certo, io vado pazzo. Ecco, io vado pazzo per le frittelle di fiori di sambuco e anche per il gelato di sambuco. Quindi, comunque, si tranquillizzi, che poi torniamo a lei. Torniamo ad Angelo. Angelo, sì. Dammi qualche piatto recente, nuovo, che tu hai preparato a base di fiori. Ma io veramente continuo con la mia filosofia e non ho avuto ultimamente grandi cambiamenti, e credo che la botanica non sia un campo ristretto, si possa fare tante cose, però il piatto molto riuscito è la mischianza con i fiori, perché oltre che un aspetto visivo, perché secondo me non si deve mangiare con la gola, anzi si mangia con la gola, però sono gli occhi i primi a colpire. E diciamo che l'insalata, la mischianza con questi fiori, la voragine in modo particolare, che non solo dà una bella visione, ma ricorda vagamente il gusto del cetriolo. Il nasturzio, oltre che essere bello con i suoi colori, dà vagamente il gusto del cappero, perciò su questa mischianza questi fiori si stanno bene. Le rose, tutte le rose, però voglio ricordare che le rose, tutti i fiori che si parla di mangiare in qualsiasi modo, e dobbiamo essere sicuri che non siano stati trattati. Ecco, certo, questo è il punto. Ma sulle rose mi viene in mente una ricetta di Artusi, visto che ultimamente si parla a proposito e a sproposito in molti casi dell'Artusi. C'è il rosolio di rose, certo, che è veramente straordinario. Sentiamo Carlo dalla provincia di Milano, radioascoltatore. Buongiorno Carlo. Sì, buongiorno, ciao. Io sono Carlo Spinelli, vabbè, ti scrivo su Italia Squisita, eccetera. Volevo assolutamente segnalare Enrico Crippa, chef di Piazza Duomo ad Alba, che fa questa insalata 51, quindi con 51 elementi da mangiare con le mani, con fiori, germogli. sì, esperienza estetica. Fiori ce ne sono pochi, c'è molto germoglio e molto varietà di insalate. Addirittura un anno e mezzo fa al Festival delle Passioni di Mantova, che inopinatamente è stato così interrotto dall'attuale giunta comunale, devo dire che fece questa insalata con una canzone scritta per lui da una cantante pop che si chiama Bartolini, e a tempo di musica preparava questa insalata. Bene, e io direi di continuare con Giusy Foschia, speriamo che si sia così tranquillizzata, che quindi non c'è niente di... Era una questione anche del telefono, non si riusciva a sentire bene. Sì, volevo chiederle se lei ha un piatto preferito, base con i suoi fiori. Sì, ho un piatto preferito, una ricetta volendo anche. Me la racconti, Giusy. Ecco, è molto facile, la possono fare tutti a casa ed è bella per questo. 3 mele verdi, una misticanza di erbe fresche. Si può raccogliere 20-30 erbe spontanee, diciamo dal bosco, perché mi trovo qua in Friuli, però anche in campagna, in un prato, si può trovare vicino alle città, insomma, se sono puliti, eccetera. E un mazzetto di rapanelli a seconda, olio d'oliva ligure, aceto di lamponi, e o in mancanza succo di un limone, e qualche griglio di noce. Bene, e poi chiederemo a un nostro sommelier, che interpelleremo, quale vino utilizzare. Angelo, ci dai anche tu una ricetta? Grazie Giusy, a presto, la verrò a trovare. La ricetta che io propongo è la ricetta che ha avuto in tutti questi anni ancora molto successo, che può essere un antipasto o può essere un intermezzo tra una portata e l'altra. Ed è molto semplice, va fatta all'ultimo momento, perché altrimenti la pera si ossida. È a base, io faccio il discorso per una persona, facciamo prima, no? Sì. Prendiamo una pera, io preferisco la decana, ma sono buone quasi tutte le pere, la pace va bene così. Si sbuccia la pera, la si sbuccia, si toglie il torsolo, si taglia a dello spessore di un euro, per modo di dire, in una terrina. Si aggiungono dei lamponi, bene? Sì. E poi tarassaco tagliato a striscioline, rucola tagliata a striscioline, il tutto si mescola con l'aiuto di olio extravergine di oliva, aceto balsamico tradizionale di Modena, un po' di sale, e si mescola il tutto, si porta su un piatto, si fa... possibilmente una bella corona di foglie di tarassaco e rucola, si aggiungono fiori di borragine e di nasturze, anche di rose, e poi si dà un ultimo giro sopra con l'aceto balsamico tradizionale e si serve questo piatto. È semplicissimo, ma parte l'ultimo momento ed è graditissimo e funziona sempre. Sono 30 anni che funziona. Sentiamo Costanza da Brescia, una radioascoltatrice. Beh, buongiorno, volevo soltanto dire, mia mamma per esempio faceva i fiori di zucca dolci in pastella, io li faccio anche salati riempiendoli con del prosciutto e formaggio e poi cotti come una cotoletta panata, ecco. Bene, grazie, vedo che sui fiori di zucca, ce ne sono tantissimi di SMS, così pure sul Sambuco, che guida la classifica del fiore preferito. Bene, ora sentiamo un grande chef che credo sia, se si parla di fiori, si parla di una cucina particolare, e lui, diciamo, il re di questa cucina. Buongiorno Pietro Lehmann. Buongiorno Davide. Pietro, allora, proprio a te chiedo, ma può esistere una cucina dei fiori? Cioè, si può fare una cucina a tutto pasto dei fiori, oppure, diciamo, bisogna usare con attenzione i fiori e non, diciamo, metterli tutti su un pranzo con diversi piatti? Cosa ne pensi? Ma dunque, il fiore è sempre un complemento, non è mai tutto il piatto. E ci sono due forme di fiori, ci sono i fiori che sono anche aromatici, invece i fiori che si utilizzano solamente per l'estetica. Nel primo caso sono tutti fiori, come sentivo prima, il sambuco, oppure il glicine, oppure la rosa è anche profumata, cioè la rosa profumata, oppure tutti i fiori delle erbe aromatiche, quindi lì si può anche giocare con il gusto. O altrimenti il fiore ha una valenza simbolica e viene inserito, ad esempio io lo metto nei piatti in primavera perché mi richiama la stagione, quindi è piuttosto la forma che non il contenuto di gusto. Tu hai un piatto tutto di fiori, un piatto tutto di fiori è difficile da fare, faccio per esempio un sorbetto di, uh, di rosa, che è molto buono, oppure però fa parte poi di un piatto, oppure col sambuco faccio delle frittelle, però anche quelle fanno parte di un piatto. Dimmi un piatto, tu hai in questo momento dei piatti, diciamo, in cui il fiore è un complemento in questo momento sul tuo menù? Sì, dunque ce ne sono due, uno che è storico, questo piatto che si chiama sotto una coltre colorata, e dove le persone fanno una passeggiata in un bosco scoprendo sotto una schiuma vari ingredienti che rappresentano il bosco, e sopra il bosco ci sono dei fiori in questa stagione che sono metodo delle rose, delle violette e anche del timo. E poi invece un piatto nuovo che entrerà nel menu adesso, che si chiama yoga e che è un'insalata crudista, dove ci sono tutti elementi crudi. Sai che adesso c'è questo grande movimento del raw anche in America, e quindi ho fatto questo piatto in questa funzione. Anche quello poi è completato con molti fiori, perché in realtà il nutrimento è il gusto delle cose, anche la sostanza, ma anche il colore delle cose. È molto importante dare importanza al colore. Il fiore, la sua valenza simbolica è molto interessante, perché rappresenta proprio la stagione, quindi noi ci nutriamo non solamente del cibo di quella stagione, ma anche del simbolo di quella stagione. E dunque adesso in estate poi andrò verso i fiori, che sono anche come colori richiamano l'estate. Ecco, poi una cosa che sicuramente si sa e di cui se ne parla è che in realtà tanti fiori si possono mangiare, anche, non so, il garofano si può mangiare. La cosa importante è che di non comprare dal fiorista, bisogna andare meglio a raccoglierlo, oppure devono provenire da coltivazioni certificate, dove non vengono utilizzate sostanze chimiche, perché poi il fiore, come anche il frutto, raccoglie tutte le sostanze che devono essere necessariamente buone, non veleni pericolosi. Bene, grazie Pietro del ristorante Gioia di Milano, grazie, a presto. Sentiamo Silvana da Pordenone, una radioascoltatrice. Buongiorno Silvana. Buongiorno a lei. E niente, io volevo ringraziarla perché lei ci aiuta e ci aggiorna con le sue trasmissioni. E noi, io con mia figlia abbiamo una piccola trattoria, però ci troviamo in primavera con le signore qui intorno a raccogliere i fiori di sambuco e fare questo aperitivo. Naturalmente ce lo prepariamo in casa, e diciamo che nella zona di Polcinigo abbiamo sostituito lo spritz con questo sciroppo di sambuco, che può essere sia con l'acqua frizzante o con l'aggiunta dei nostri vini bianchi. Qui diventa un aperitivo veramente eccezionale, secondo noi, ecco. Anche lo facciamo in giro nella Gli avete dato un nome? Come? Gli avete dato un nome a questo aperitivo? No, diciamo tutti sciroppo di sambuco. Va bene. Bene, grazie Silvana da Pordenone. Bene, ora abbiamo un grandissimo pasticcere, uno dei sommi pasticceri italiani, che improvvisamente è uscito con un libro che mi ha molto sorpreso. Mia nonna mangiava i fiori. Buongiorno a Iginio Massari. Come mai, Iginio, questo libro? Ma è stata... Sono due edizioni di Mia nonna mangiava i fiori, sempre con lo stesso titolo. Sono dei libricini comunque che sono divertenti, e per far capire che una volta i fiori si utilizzavano molto di più, sia in pasticceria che in cucina. La parte aromatica del fiore ovviamente è straordinaria se è ben utilizzata, oppure può essere a tutti gli effetti negativa, perché chi utilizza la rosa ha un aroma talmente violento e non così delicato. Diventa delicato se usata con parsimonia, è la parte essenziale. Che si possono fare sia dolci che del cibo salato di straordinaria bontà, ma sta proprio nel calcolo, nel misurare la parte aromatica del fiore. Il colore è coinvolgente, il fiore senz'altro fa coreografia, ma delle volte quando si cucina diventa come un'erba. E anche nel mondo dolciario diventa la parte aromatica. Ovviamente quelli che conosciamo di più nella parte della pasticceria sono le violette candite, che facevano parte della tradizione che accompagnavano i marron glacé. Ovviamente candire una violetta si impiega tanto di quel tempo che e candirla bene diventa qualche cosa di difficilissimo, e per quello che sono così costose, ma lasciano il segno del ricordo aromatico sul palato. Io ritengo che i fiori, se sono ben utilizzati è qualcosa di straordinario. Non dimentichiamo comunque che il famoso risotto alla milanese è fatto con dei pistilli. Sì, io devo ricordare, hai ricordato risotto, io devo ricordare, anche se è di frutta, che il risotto di Pina Bellini alle fragole, che poi tutti hanno copiato in qualche maniera, in qualche modo anche indecente, perché non era la bravura di Pina Bellini, ha segnato una delle stagioni in Italia e a Milano, poi l'hanno copiato un po' da tutte le parti. Rimani con noi, Gino, sentiamo Laura da Udine. Buongiorno Laura. Buongiorno a lei, signor Davide, buongiorno a tutti. Io volevo fare questa domanda: ma bisogna essere un botanico, studiare la materia per sapere i fiori che sono quelli commestibili e quelli no? Se io mangio l'oleandro mi farà sicuramente male, cosa va a finire? Vado a finire all'ospedale oppure mi viene una colica? Cioè, sembra banale questa domanda, ma no. È fondamentale. Lei ha tutte le ragioni. Beh, sentiamo Iginio come fa lui a scegliere i fiori allora, quelli commestibili. Ovviamente bisogna conoscerli, perciò bisogna informarsi a fondo, perché possono essere delle bontà e possono essere anche dei veleni. L'oleandro, soprattutto la foglia, è un veleno, e dal momento che la foglia è un veleno non mi sono mai neanche avvicinato al fiore, per dire la verità, perché il cibo deve essere un piacere, ma ritengo che non deve essere un piacere a rischio. Certo. Come il famoso pesce palla che c'è in Giappone. In Giappone. Il piacere del vivere attraverso un cibo ben presentato e ben curato è qualcosa di straordinario, ma se devo rischiare a mangiare, meglio lasciarlo. Beh, il pesce palla, secondo me, in Giappone è, diciamo, è una sfida, con una sfida veramente col rischio, quindi chi piace rischiare. Io l'ho assaggiato, però l'ho assaggiato in un posto che era autorizzato e diciamo che ero sicuro al 100%, altrimenti non avrei rischiato. Grazie Iginio, sentiamo Pia da Milano. Buongiorno Pia. Buongiorno a tutti quanti. Senta, sentivo proprio stamattina, parlate tanto dei fiori, la primula di bosco, quella gialla, non quelle che vendono, non l'avete nominata. Io la adopero nell'insalatina quanto mi è possibile, perché non è facile trovarla. Oppure, se ce l'ho, lo faccio una bella crostata, diciamo, di frutta fresco, anche così, e decoro con queste primule. Beh, signora, non è che possiamo citare tutti i fiori, è evidente che qualcosa abbiamo dimenticato. Comunque, grazie di questa segnalazione. Sentiamo Savino dalla provincia di Torino. Buongiorno, Savino. Buongiorno. Mi dica. Niente, io ascoltavo la trasmissione perché mi piace moltissimo questa trasmissione e volevo dirle che fra tanti fiori non ho sentito il fiore di Cagia, Acacia. Beh, sa, il problema, come ho detto prima, non si possono citare tutti, quindi... E lei lo usa, questo fiore? Comunque posso dire che è un fiore molto, molto, molto buono, perché naturalmente una volta fatte le frittelle sembra la viene del miele in bocca. Ho capito. Quindi... E poi è anche utile perché si può mettere nei sacchettini, metterli in freezer e all'inverno uno lo tira fuori e fa le frittelle. Grazie a lei. Volevo segnalare una gelatina di lavanda da mangiare col formaggio un po' stagionato. Ho imparato questa ricetta nell'entroterra genovese, segnala Tina. Bene, devo dire che è un mondo veramente che non ritenevo esistesse. Comunque l'abbiamo scoperto, fa piacere, e mi fa piacere anche avere in linea con noi Francesca Marzotto Cavotorta, con la quale per 20 anni abbiamo diviso le pagine di Tempo Liberato del Sole 24 Ore. Buongiorno Francesca. Buongiorno Paolo. Vedo che c'è il tuo libro, Il giardino da mangiare, tu hai scritto questo libro, quindi si può fare un giardino, diciamo, chiamiamolo così, a casa? Adesso ti dico subito una cosa, buongiorno a tutti, che Il giardino da mangiare è un libro che non si trova più, che non è più in commercio, mentre si trova All'ombra delle farfalle, che è appena uscito da Mondadori, dove si parla anche, naturalmente, visto che si parla di piante di giardini e visto che per me le piante... come dire, hanno infinite aspetti, c'è anche l'aspetto delle piante che si possono mangiare. Ecco, volevo chiederti, ma perché in questo momento c'è questo grande ritorno della cucina dei fiori, dovresti ripubblicarlo questo libro, Il giardino da mangiare? Questo librino, dovrei ripubblicarlo, è vero, bisognerebbe dargli nuova vita, sì, hai proprio ragione, perché è anche un libro molto carino e molto ben illustrato. Ecco, volevo chiedere, tu che sei una grande esperta, ma uno si può fare a casa un giardino appunto con sì, diciamo... Ma guarda che la maggior parte delle piante che si mettono in giardino comunque si può mangiare. Tanto ti puoi immaginare, una volta quando c'era poco da mangiare in giro ci si ingegnava a mangiare tutto quello che c'era. Per esempio il sambuco, che adesso è tutto fiorito dappertutto, era proprio nella transizione contadina insieme alle acacie, sai, i fiori di acacia e i fiori di sambuco che si friggeva in una pastella, è un tra i miei ricordi più meravigliosi della mia infanzia quando li facevano. Tutto sta nella pastella, un po' come nella cucina giapponese. Ma è squisito quello lì, si fanno le frittelle dolci buonissime, poi per esempio lo stesso sambuco ne facevano un aceto aromatico, poi lo stesso sambuco e fiori secchi li mettevi insieme ai dolci di frutta, poi ne facevi una marmellata, insomma già quello si ingegnava nello stesso con la caccia, le primule, i garofanini che ci sono adesso, per esempio adesso sono fioriti dei fiori che si chiamano emerocallis, che sono molto vistosi e li si vede nei giardini, sono colorati gialli, insomma chiunque abbia un giardino. In Cina, quello lì era una tradizione cinese, quella di adoperarli un pochino come le adoperiamo noi fiori di zucca, sai che le fai? Sì, certo. La stessa cosa li fai con gli emerocallis, però le puoi mettere anche cotte se fai uno spezzatino di pollo, per esempio, e metti i bocci in quel caso lì. Non so come dirti, per esempio le margheritine, quelle serie proprio le margheritine le più banali del mondo, quelle lì lo stesso, pensa che ne fai, i fiori li metti nell'insalata oppure li puoi cuocere, sono buonissimi. Con i bocci invece li metti sotto aceto e fai come fossero dei capperi. Bene, quindi c'è veramente un'enciclopedia, stai con noi. Comunque sentiamo Mauro da Bologna, un radioascoltatore. Buongiorno Mauro. Sì, buongiorno, una domanda sola, volevo chiedere se il fiore della ginestra è commestibile. Bene, giriamo questa sua domanda a Francesca Marzotto Cautorta. Francesca. Che io sappia assolutamente no. Bene. La ginestra era usata semmai come pianta tessile, quello sì. Bene. Della ginestra, sì. Bene, grazie a Mauro, grazie della domanda, ha sentito la risposta. Allora, abbiamo con noi anche, era doveroso, un sommelier, perché è evidente che ci sono tutti questi piatti di fiori, capiamo se si possono così associare molto bene col vino e quindi sentiamo da Federico Graziani. Buongiorno Federico, sommelier di Aimenadia. Tu cosa ne pensi di questo accostamento fiori-vino? Ciao Davide, buongiorno a tutti. Allora, come diceva giustamente Pietro Lehmann, sì, che saluto, l'abbinamento con i fiori è sempre legato poi all'ingrediente principale del piatto, quindi dipende dal contesto in cui viene utilizzato. Io partirei da Milano proprio dal risotto allo zafferano, che comunque è a base di una sostanza aromatica proveniente dai fiori, dove secondo me un bianco di buona struttura, magari del Coglio, potrebbe sicuramente stare bene. Poi se andiamo sulle insalate, su questi piatti più leggeri, dove i fiori vengono utilizzati come sensazioni aromatiche, magari qualche, ecco, io andrei a riprendere proprio i vitigni antichi, di antica coltivazione, Timorasso, Kerner, Falanghina, abbracciano tutta l'Italia, credo che in ogni regione fino al Caricante sull'Etna si possano trovare dei vini molto gradevoli che hanno un corpo delicato ma una sostanza aromatica diciamo molto graziata. Sentiamo Paolo dalla provincia di Padova. Buongiorno Padova, buongiorno Paolo. Buongiorno, ho sentito parlare della cucina con fiori. Sì. Ho avuto il piacere di conoscere Angelo Amoroso, chef. Sì. È stato uno dei primi cuochi a fare la cucina con i fiori. Ma dov'è questo chef? Qual è il ristorante? Allora, questo chef ormai ha sui 70 anni, 76, ha lavorato moltissimo in America, è stato venuto fuori anche un articolo su gente di diversi anni fa. Se vuole le do il numero. No, no, no, no, voglio chiedere se era in Italia e se era il ristorante. Allora, siciliano, ha lavorato moltissimi anni in America. Bene. È stato cuoco della famiglia Gambino, di Bush padre, e nonché Andreotti, c'è scritto su questo giornale, l'ho visto in internet, letto anche su internet. Bene. Andava spesso nel suo ristorante di New York per l'elisir di lunga vita che lui gli preparava. Grazie a Paolo di questa segnalazione. Torno a Federico, si è parlato molto di sambuco. Federico, ci sono, sì, molti vini che hanno questo sapore, questo bouquet di sambuco, ma il sambuco, cioè il fiore di sambuco fritto, che io mangio spesso, devo dire, specialmente, sì, appunto in stagione, con cosa lo abbineresti? Ecco, io sulle frittelle, su fritti, sambuco, acacia, starei su delle bollicine poco impegnative ma molto gradevoli, soprattutto per la stagione, un prosecco non particolarmente dolce, oppure qualche champenoise Trentino, sono vini molto graziosi, puliscono il palato e non invadono. C'è ad esempio anche un bellissimo esempio dai piedi del Monte Bianco, il Blanc de Morger della Salle, vinificato spumante, secondo me ecco, è uno degli abbinamenti ideali con questo piatto. Ma vedo, mi vengono molte segnalazioni di ristoranti, per cui vuol dire che ce ne sono tanti che usano i fiori, della Tenuta Naturalia di Larizzate, provincia di Vercelli, dice che fanno i risotti con i fiori d'acacia, pere e viole, funghi e fiori, rosa canina e ortica, quindi delle combinazioni appunto interessanti. Rosa canina e ortica sarebbe da assaggiare, anche fiori d'acacia, pere e viole. Bene, siamo grazie a Francesca Marzotto Cautorta, di cui ricordo All'ombra delle farfalle e Il giardino da mangiare purtroppo non si trova più, però penso che magari verrà ristampato, speriamo, e a Federico Graziani per i suoi consigli. E chiudiamo questa trasmissione avendo fatto questo giro di questa cucina dei fiori, che sicuramente è un qualcosa, non dico di emergente, perché non credo che sia la cucina del futuro, però è una cucina che è sempre, diciamo, ha continuato ad essere praticata, anche se non se ne è sempre parlato molto. Bene, ringrazio in regia Valeria Bernardi, in redazione Anita Panizza e Margherita Frarelli. Questa volta l'ho pronunciato giusto. Buona cucina coi fiori da Davide Paolini.